Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. A tutti, buonasera, bentornato e bentornati ad una nuova puntata della Mucca Libera. Anche questa sera alle ore 19, giù di lì, diciamo quasi le 19:00, siamo in onda e ci potete ascoltare anche domani martedì alle ore 11 in replica come tutte le settimane. Ricordo a inizio trasmissione che potete contattarci alla nostra mail, il cui indirizzo è lamuccalibera@autoproduzioni.net, e poi ricordo anche il nostro canale Telegram La Mucca Libera. Potete trovarlo facilmente facendo una ricerca su Telegram. Allora, iniziamo la puntata, la trasmissione, con una notizia che è ormai in aggiornamento da 2-3 settimane, perché voglio parlare dei tori resistenti di Torino, della zona di Venaria. Ormai è passato un mese da quando i tori sono fuggiti da questo allevamento da rodeo e si sono nascosti nelle campagne della zona del torinese. Come abbiamo detto la volta precedente, di questi 5 tori resistenti in fuga, uno è stato purtroppo ammazzato da un'automobile pochi giorni dopo e un altro è stato catturato. Ora sono rimasti 3 tori in fuga nelle campagne e per prenderli, per catturarli, si è dispiegato nei giorni scorsi un quantitativo di forze dell'ordine e di persone che li stavano cercando, insomma non indifferente. Ne abbiamo già parlato e l'aggiornamento di questa settimana è che appunto sono in fuga ormai da un mese, sono stati segnalati nel comune di Fiano, secondo alcune ricostruzioni attendibili, però non c'è più tutta questa gente che li sta cercando, ma si parla solamente dei soliti addetti ai lavori che hanno provato a narcotizzarli con un piano fatto anche di esche tra virgolette e di accerchiamento della zona, però fortunatamente non sono riusciti ancora a trovarli. Si parla, insomma, il dibattito è che, insomma, ci sono alcune frange più estremiste, tra virgolette, delle forze dell'ordine che vorrebbero ucciderli, e poi c'è la maggior parte invece delle istituzioni che preme ancora per narcotizzarli eventualmente, anche se il dibattito attuale è che è molto difficile, perché fortunatamente questi tre tori sono ben nascosti nella zona. Il comune di Fiano, insomma, sempre vicino Torino. Quello che mi sembra di dire in conclusione di questo aggiornamento, insomma, è che siamo sempre dalla parte loro, sperando che continuino la loro fuga. Mi verrebbe da fare una battuta: speriamo che non si mettano in testa di bombardare la zona, perché veramente le stanno provando tutte in una situazione che non desta alcuna preoccupazione assolutamente per nessuno, semplicemente la libertà di questi tre individui che è dispiegata. Parliamo sempre di animali in libertà, animali resistenti. Una notizia che ci arriva dalle nostre parti, dalla provincia di Napoli, il comune di San Sebastiano. Le cronache locali ci raccontano dell'avvistamento davvero inusuale, secondo appunto questi media locali, nella via centrale del paese, che si chiama via Matteotti, non lontano dai bar della zona, di un maialino libero in strada che girava tranquillo, intento a mangiare l'erba vicino, insomma, agli alberi che arredano le strade della città, a due passi di una gelateria del posto. Questo avvistamento, tra virgolette, che viene detto come inusuale, è stato poi riportato alla persona che gestisce una proprietà privata della zona, e il maialino è stato ricondotto in questa proprietà privata. Si è discusso molto anche sui media che tipo di vita faccia questo maialino ritrovato nel centro della cittadina di San Sebastiano, e ovviamente l'augurio è che sia quantomeno in sicurezza una volta ricondotto nel posto dove abitava prima. Altro avvistamento di animali che vogliamo chiamare resistenti, dei cinghiali che si sono spinti verso la zona abitata di Rende. Rende è un paese che è in provincia di Cosenza e alle porte del capoluogo, e questo gruppo composto dalla mamma cinghiale e da 5 cuccioli è apparso in via Modigliani ed è stato subito immortalato da automobilisti e altre persone che giravano per la zona. Questi cinghiali fortunatamente non sono stati più avvistati dalla zona, ma se ne sono andati via dal centro abitato, e si spera che stiano in libertà e possano non avere problemi, diciamo. Di un argomento di cui diciamo in genere non trattiamo molto nella nostra trasmissione, però ci sembra comunque interessante fare un accenno a quello che è il consumo e la produzione sul mercato di prodotti vegan o di origine vegetale al 100%. Se ne è parlato molto in quest'ultimo periodo, perché una serie di marchi, anche di multinazionali e di prodotti anche che definirei tra virgolette culturali, come libri che parlano di ricette fatte sempre in base al 100% vegetale, insomma, da tutti questi prodotti di mercato è scomparsa la dicitura vegan, questa etichetta che tende sempre più a scomparire da questi prodotti. Quello che diciamo è un cambiamento che è fatto sempre per questioni di marketing, per questioni di mercato. Evidentemente c'è dietro una situazione anche di ricerche fatte in maniera molto approfondita, e siccome questi prodotti devono essere rivolti ad un pubblico più grande, ad un pubblico più ampio, si pensa di non dare la dicitura vegan a questi prodotti per dargli un risalto più di mercato più allargato. Su questo fatto, diciamo, a parte che si sono viste recentemente alcune pubblicità molto strane di burger vegetali, per esempio al 100%, che parlano di situazioni rivolte non solo ai vegani, non solo diciamo, ai vegetariani, fruttariani, però fatti in maniera molto, molto vaga, pur di non parlare di vegan. Questa situazione poi viene riportata tutto all'interno di un discorso di mercato, per cui l'allargamento alla situazione di un pubblico più ampio non ha più questa etichetta. Quello che mi viene da dire è appunto che siamo sempre all'interno di un discorso di consumo, per cui bisognerebbe parlare di più di antispecismo e di resistenza animale. E sono tutti prodotti che poi alla fine sono prodotti di consumo. Certamente si potrebbe parlare anche di vegefobia, di quello che è lo stigma che viene dato per chi non vuole consumare prodotti di origine animale, ma quello che è più importante, quello appunto di cui, a cui diciamo, noi siamo più legati nella nostra trasmissione, è parlare della vita degli animali, della loro resistenza. Riguardo al consumo, poi parleremo anche di cucina antispecista e di quello che è tutto attorno all'antispecismo. Adesso facciamo una piccola pausa musicale con Franco Battiato. Allora, diamo un'altra notizia prima di sentire Battiato, e parliamo di una situazione relativa ai danni ambientali che ci sono stati recentemente nella zona dello Sri Lanka, in Asia. È in corso un disastro ambientale, un incendio scoppiato il 20 maggio su una nave cargo. Ha fatto riversare tonnellate di materiali plastici in mare e sulle spiagge. Questo è il peggior disastro ambientale della storia del paese. Il 20 maggio una nave cargo che trasportava diverse sostanze pericolose ha preso fuoco al largo delle coste occidentali dell'isola, riversando in acqua carburante e microplastiche, che stanno danneggiando la vita marina e si stanno depositando sulle spiagge della zona. Ovviamente questo danno ambientale di grandissima portata coinvolge anche gli animali, gli altri animali, e quindi purtroppo sono sempre notizie che, oltre a dare quello che è il segno della devastazione ambientale, ci parlano anche di tutta la strage che è quotidiana nei confronti degli altri animali. Sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene. Siamo di nuovo in onda, parliamo di una situazione molto particolare che riguarda la carne coltivata in laboratorio. Alcuni media ci parlano di un'era che si avvicina, una nuova era che è quella non del cinghiale bianco, ma scusatemi questo riferimento a una trasmissione che ci sarà dopo di noi, che è il panda yogico, la cui sigla è appunto quella del cinghiale bianco di Battiato. Va bene, oltre a questo riferimento, L'era della carne coltivata in laboratorio si avvicina, secondo alcuni media che riportano i sempre più cospicui investimenti nel settore. Infatti il 2020, appena trascorso, è stato l'anno in cui questo alimento è stato più finanziato da una serie di multinazionali. A Singapore c'è stato, il Singapore è stato il primo paese al mondo a dare il via alla vendita di carne coltivata. Ovviamente quando parliamo di coltivazione della carne parliamo di carne sintetica in vitro che viene creata in laboratorio tramite le cellule animali, che sono nutrite queste cellule con sieri di origine vegetale o stesso anche animale. Quindi queste cellule crescono fino a diventare tessuto muscolare all'interno di bioreattori. Si tratta dunque di carne vera e propria, che al contrario di quella convenzionale però si ottiene senza macellazione. Quindi da un lato c'è l'aspetto, possiamo dire tra virgolette, positivo, che non c'è la macellazione degli animali, dall'altro lato siamo sempre in presenza di carne e di prodotti animali, seppur fatti per le lunghe o comunque in via molto artificiale. Parliamo sempre di sfruttamento degli animali e di cibo animale. Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi le brevi storie. Sempre in tema di ambiente e di situazioni che coinvolgono sia l'ambiente e la sua devastazione che quello che riguarda anche gli animali che vivono in questo caso nel mare e negli oceani, si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani 2021 e in questa giornata si sono riportati una serie di danni molto, molto gravi sul 60% delle spiagge del Mediterraneo. Queste spiagge sono inondate da tutta una serie di scarti che sono anche quelli che poi sono legati al periodo particolare di pandemia, perché sono anche gli scarti dovuti ai dispositivi di protezione. Purtroppo non si è trovato ancora un modo che riguardi la tutela dell'ambiente per smaltire tutta una serie di scarti provenienti anche da questo periodo della pandemia e della sua e di tutti i rifiuti che provengono dal punto di vista medico e di dispositivi di protezione. Purtroppo questa devastazione del territorio, dell'ambiente, riguarda anche gli altri animali, che sappiamo bene, noi ne abbiamo parlato recentemente anche discutendo del documentario Sespiracy. Questi animali sono uccisi su scala industriale anche in seguito all'inquinamento e a quella che è la pesca di tipo industriale. Quindi è una devastazione dell'ambiente a doppia faccia, che riguarda sia la terra che abitiamo sia gli altri abitanti della terra. Adesso ascoltiamo una canzone di un gruppo che a me piace molto, sono i Sempre Peggio con Giorni. Scolpiti nella memoria, giorni